Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La Juventus stasera vince 3-0 e lo dico subito, registrate poi domani lo mandate, carogna. C'è un gran castello nella contea di Camelot, con mille più scudieri al servizio di un grande re dal sangue pane. Corsa dritta, Vidal, rete! Rete! Non sbaglia il guerriero! Vidal, Juventus in vantaggio. A sua maestà. Vidal, ancora una volta, ancora un duello con Vidal. Tutti col fiato sospeso. Parte Vidal, destro secco, rete! Prova a metterla in mezzo, Vidal a giro, rete! È rete incredibile, fantastico Vidal, l'eroe della serata, l'eroe della Juventus Stadium che fa impazzire tutti. Allora come la mettiamo? Ha detto 3-0, 3-0, 3-1 non cambia niente, Franco Piantanini, autore di questo programma, ma oggi la canzone l'ho pescata io, e chi è nato dopo il 1981 è autorizzato a non saperlo, gli altri sono obbligati a conoscerla e me lo devono dire. 800240024, Roberto Scaltritti in regia. Dunque la Juve vince segnando le tre, come ieri avevo detto, rimane in corsa perché il Galatasaray, anche questo mi pare di averlo detto, o forse no, non ricordo, comunque il Galatasaray si dimostra una banda di giro, un circo di vecchie glorie, e in 10 contro 11 si fa sotterrare da Carletto Ancelotti. A questo punto la Juventus ha la qualificazione in mano, deve pareggiare ad Istanbul, e mi sembra che il verdetto sarà giusto, perché se la Juventus non pareggia quantomeno sul campo della banda di giro turca, allora merita di non passare questo girone che è diventato più difficile del previsto. Comunque, pronostico indovinato, come dicono gli americani quando del basket, quando schiacciano in testa un avversario, in your face. Conoscete questa espressione? Ebbene, io vi dico, beccatevi questa, pronostico azzeccatissimo, e mi dovete dei soldi che potete, che verranno girati immediatamente alla Fondazione Balotelli, non so se ce ne sia una, ma comunque, tant'è. Ritiro previsto domani, quando porteremo invece la compagnia di giro di tutti i convocati in diretta al Forum Agenti, alla fiera di Milano, quindi saremo lì e raccoglieremo i soldi che ci dovete. Arrivando anche Pardo, 800240024, numero verde. Una settimana di Europa che ci ha lasciato un sacco di temi sul piatto, tra l'altro stasera Lazio e Fiorentina chiudono la settimana con l'Europa League, e c'è Petkovic sempre più traballante, e giungono anche notizie invece di cronaca molto preoccupanti da Varsavia, dove ci sono scontri tra i tifosi o i teppisti laziali in cerca di rogne e la polizia, fermati 17 tifosi della Lazio, questo stanno raccontando le cronache. La sensazione è che la Juventus dopo Firenze abbia fatto come Rambo, no? Si è cucita da solo le ferite ed è molto più arrabbiata di prima. Eccolo qui. Senti, ciao Pardo. Ciao. Metti la cuffia, ciao. Metti la cuffia e senti questa canzone. Vai, fammi sentire. Pierluigi, ti licenzio. La sai? No, cos'è? Ma sai niente. Furbo come un gatto, chi era? È la canzone di Re Artù. Ah, Re Artù? Ah, giusto. Ti ricordi che cartone animato? 1981. Ma io avevo un rapporto problematico con i cartoni animati, veramente, sì, giuro. Era un bambino. No, che la era un bambino difficile. Era un bambino difficile, di quelli. Che stavo che dicendo devi... che domani io ho indovinato pronostico, io ho detto 3-0, 3-1. No, vai piano, tranquillo. Ho detto 3-0, 3-1 è uguale, quindi ho indovinato, mi devono dei soldi. Sì. Io ho detto 3-0. Tu hai detto 3-0. Ho detto anche che Real vinceva facile, mi pare 3-1, ho detto, perché non volevo fare. Non volevo allargare. Allora, domani io vado a forum agenti, esatto, alla fiera, tu non ci sei. Cerchi agenti rappresentanti. Bravo, okay, raccolgo soldi che poi verranno devoluti alla Fondazione Balotelli. Esatto, no, ma facciamo la Fondazione Pardo Getta, diciamo, molto più tranquillamente. E dici che cosa investite? Spritz, ecco. Ecco. Spritz e altre amenità. Un po' accaldato, avresti bisogno di una. Vuoi fare una doccia? No, non è vero, assolutamente. Sono anzi anche pulito. Aspetta. Vita, vita, vita, vita. La freschezza, la carezza, gocce di vitalità. Vita, vita, vita. Pierluigi, ti licenzio. Sì. Oggi siamo in pieno remake. Dopo chiamo Mughini e gli dico che mi ha provocato un danno d'immagine incalcolabile. Oggi siamo in pieno remake anni 80, erano gli anni in cui erano gli anni della Juventus. Gli anni d'oro del Grande Real. Anni d'oro del Grande Real, ma anche gli anni della Juventus di. Sta per diventare la Juventus di Platini e Boniek, quella della. Che perse la Coppa dei Campioni contro l'Amburgo di Magat, insomma, erano quegli anni lì. Amburgo, che invece, scusa, faccio questa citazione da Secchione. Falla. Amburgo che ci ricorda l'ultima tripletta di uno Juventino in Champions, prima, sì, quella di ieri sera, che è quella di Inzaghi con un solo gol sul rigore e due su azione. In Amburgo Juve 4-4 settembre 2000. Bravo, adesso che hai fatto studiato, il professorino, considerazioni sulla Juve. Chiedono i soldi per i pronostici sbagliati di Napoli e Milan. Non so se domani è una buona idea fare. No, ma che venisse. Mettere a bilancio. Voi venite, poi facciamo due. Intanto quelli sono prescritti. Tanto qui a prescrivere si fa presto. Io avrei anche rotto col definire i laziali teppisti. Vabbè, allora dico che ci sono diverse brave persone a Varsavia che stanno facendo a cazzotti con la polizia. 17 di queste candide persone sono state fermate dalla polizia. Che anche all'andata mi pare che a Roma ci sono stati problemi con i tifosi del Legia. No, lo dico non per giustificare, ma la generalizzazione. Qui il punto è sempre lo stesso: nel momento nel quale uno scrive, come la Gazzetta dello Sport adesso, Lazio fermati 15 tifosi a Varsavia per possesso di armi da taglio, questi sono 15 tifosi che vanno in giro con i coltelli. Ci sono della Lazio, ci sono di tutte le squadre del non mondo, purtroppo. Dicendo, lo sto dicendo perché la cronaca ci parla della Lazio, certo, forse cioè, un'altra squadra, certo, direi che sono. Però ecco, la generalizzazione laziale, quella del pista, è inaccettabile. Ma chi l'ha detto? Che, ok, perfetto. Detto questo. Vale il discorso: chi va in giro con i coltelli, Lazio, Roma, Napoli, Bologna, Treviso, Triestina, Ascoli, Ancona, Perugia. C'è gente disperata, basta con la canzone. Una delle canzoni più brutte del mondo. Nocerina. Eccetera, eccetera. Teppisti. Provocano, vabbè, quindi questi sono teppisti, punto. Sono delinquentelli. Dicevo, la Juventus dopo Firenze ha fatto come Rambo. Sì. Rimaniamo in quegli anni lì, no? Si è incazzata dura, si è cucita le ferite come faceva Rambo, ti ricordi? Dal vivo, e ha fatto la faccia cattiva e ha cambiato marcia. La reazione della grande squadra, non ci sono dubbi su questo. In campionato è più evidente, in Champions potrebbe bastare, potrebbe non bastare, ma insomma, comunque il dato politico, diciamo, è che la Juve ha reagito fortissima, ha saputo trasformare una pagina brutta, quei quattro gol presi in mezz'ora, in qualcosa di positivo. È la forza delle grandi squadre, quello, sì, no? La capacità di interpretare le vittorie e le sconfitte e trasformarle sempre e comunque in positivo, in un modo di migliorarsi. E adesso non ha ancora fatto niente comunque in Champions League, perché deve chiudere il discorso andando a fare un pareggio a Istanbul però, la banda di giro. Dalla seconda partita in poi io vado tipo di scorotto, ripetendo che tanto si sarebbe arrivati a Istanbul, sì, sarebbe stata decisiva, e bisognava capire con quanti risultati la Juve sarebbe arrivata a Istanbul. ci arriva con due risultati, possono essere un vantaggio, anche se poi io non credo che Conte vorrà fare una partita di per lo 0-0 con le barricate. La Juve è più forte del Galatasaray e credo che proverà a dimostrarlo senza grandi problemi. Io credo che se la Juve non dovesse passare questo girone sarà un risultato sportivamente giusto e anche abbastanza disastroso. Giancarlo Padovan, direttore, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori. Ciao, da parte anche di Pardo, Pardo, un uomo magro, alto, sì. Perché ridi? Sono alto. Alto, buono, sta buono. Magari alla radio magari c'è qualcuno che può, no, concedere il dubbio. Quindi magari sono delle ascoltatrici che. Cosa ne pensi del discorso di Pardo sulla Juventus? Non so se l'hai sentito. Sì, l'ho sentito, lo condivido. Si doveva arrivare a Istanbul ed era ovvio che fosse così, perché la Juventus dopo, ricordiamoci che la Juventus ieri sera ha vinto per la prima volta, quindi non poteva certo sperare in nessun caso aritmeticamente di arrivare già qualificata, e i pareggi precedenti erano stati forieri di questa eventualità, che è appunto quella che poi andremo a verificare l'11 dicembre. E io penso che la Juve finora abbia fatto poco in Champions, abbia fatto proprio il minimo sindacale: vincere una partita, pareggiare le altre, perdere con Real Madrid una gara e a Istanbul con il Galatasaray farebbe veramente una brutta figura se andasse per il pareggio. Io non credo che si giochi poi per il pareggio, perché se giochi per il pareggio poi perdi, e credo che sia superiore e che debba andare a dimostrarlo. Però attenzione, non è fatto nulla ancora, cioè è una trasferta molto molto delicata. Cioè, si è messo il Galatasaray nelle condizioni che voleva, nel senso che ha l'impellenza di vincere e avrà dalla sua un pubblico infernale. Sì, però resta una squadra che ieri sera ha fatto la figura della banda delle vecchie glorie, Sì, è vero, è verissimo, ma sai, le partite sono tutte diverse l'una dall'altra. La squadra non è una squadra estremamente competitiva, però purtroppo per la Juve è la stessa squadra che è riuscita a pareggiare in extremis a Torino. Cioè, non so poi se nelle gare secche si soffra o si sconti qualche elemento, qualche scoria anche psicologica. Io dico che la Juve dovrebbe sicurissimamente andare lì per giocarsela e vincerla, ci sarà uno stadio che già lo si conosce da molto tempo, è vero che gli spettatori non giocano, ma una squadra che sia immatura da questo punto di vista potrebbe risentirne. La Juve non dovrebbe essere immatura, dovrebbe essere una squadra che fa il fatto suo, competitiva e senza paura. Quanto vale Vidal? Dove lo mettiamo? Adesso lo so benissimo, adesso perché poi ci scriveranno. Ieri ha fatto due rigori, però stiamo parlando di un giocatore che alla fine di novembre, un centrocampista, ha fatto 10 gol. 10 gol, insomma, è già in doppia cifra in stagione. Ecco, c'è qualche rigore dentro sicuramente, però insomma mi sembra un impatto realizzativo fondamentale. Dove lo mettiamo Vidal nella top 10, top 20 dei centrocampisti europei? Ma lo mettiamo nei primi 5 sicurissimamente, perché di centrocampisti europei di grande qualità ce ne sono tanti, molti li vedo giocare nel Borussia Dortmund, molti nella Bayern di Monaco, molti secondo me nell'Arsenal, soprattutto centrocampisti offensivi, ecco, certo. Mi riferisco a questi. I tedeschi ne hanno una batteria in questo senso, però direi che nei primi 5 lui ci sta. È stato un acquisto molto molto intelligente. Subito dopo i 3 acquisti a costo zero, a parametro zero, viene l'acquisto di Vidal da parte di Paratici e Marotta, perché è stato pagato meno di 10 milioni. È un giocatore che in questi anni ha più che triplicato secondo me il suo valore, e la Juve farebbe bene a fargli firmare questo benedetto contratto di cui sento parlare da 2 mesi, ma ancora il rinnovo non è stato firmato. Però ieri ha detto con chiarezza che è vicinissimo, per cui se il diretto interessato lo dice, insomma, mi sembra che sì, no, anch'io, però insomma non si capisce allora se è così vicino che dobbiamo fare? Aspettiamo l'annuncio, no, che lo facciano, perché io ho una sensazione netta. Per esempio che Pogba subirà a giugno l'assalto dei grandi club europei, e allora la Juve deve avere almeno delle certezze alternative. Uno si chiama si deve chiamare Vidal, due si deve, il secondo deve essere Pirlo, e se non è Pirlo deve essere Xabi Alonso. Sì, ma ieri un ascoltatore chiedeva il valore assoluto del centrocampo della Juventus in prospettiva europea, cioè quanto vale quel centrocampo in assoluto nella Champions League attuale? Secondo me è a livello delle più forti. Sì, è a livello delle più forti, però il problema è quando noi diciamo quanto vale, ci mettiamo solo una valutazione di tipo tecnico, ci mettiamo anche una... altri tipi di valutazione, altri tipi di considerazione. Io dico che l'esperienza internazionale, per esempio, è un aspetto che secondo me ancora difetta in qualche modo alla Juventus rispetto ad altri reparti, sempre di centrocampo, di altre formazioni. Secondo me un pochino sconta questo distacco. Dopodiché è sicuramente un reparto molto importante, un reparto che è il meglio per quanto riguarda la Juventus. Detto questo, sai, le squadre non si possono giudicare solo per reparti, ma si devono giudicare nel loro complesso, e la Juve qualcosa ha pagato più di qualcosa ha pagato nella prima fase di Champions. Grazie direttore, a presto. Ciao. Grazie a ciao. Voi, ciao Gianpierluigi, ciao. Buona giornata e buona trasmissione. Grazie. 800240024, convochiamo gli ascoltatori. Assolutamente. Mi dicono che se voglio cuccare non devo dire che sono alto a venire con te in fiera, ma io non voglio cuccare, Fabio, sto benissimo così, guarda, la pace dei sensi. Io cucco delle legnate, lo dico io. Ascolta me, vado con la polizia, altro che. Ma io purtroppo non sono tecnologico e non amo molto i social network. Va bene, dai, domani portiamo anche Gioacchino da Caltanissetta, Salvatore da Napoli, biglietto pagato, tutti in fiera a Milano per Forum Agenti. Tutti in fiera, cerchi agenti, rappresentanti. Te ce stai. Non vediamo, vediamo. C'è un messaggio di tua mamma. Mi sta salendo la voglia. Di mia mamma? Sì. Ti ho preso la pappa reale perché è tanto che non la prendi, ricordiamoci stasera, buon pomeriggio. Guarda che Fausta spesso ascolta, tutti convocati. No, veramente. A parte pensa sempre su Radio 24, potremmo farne la nuova testimonial. Ma volentieri. Sempre tanto. Gioacchino Caltanissetta. Scatenate. Sì. Gioacchino? Pronto? Pronto? Pronto, buongiorno. Come va? Dove sei? Bene, ma che bella che è la mia Juve. Che meraviglia. Che meraviglia. Io volevo dirvi una cosa a tutti voi giornalisti, che tutti parlate di calcio mercato, che la Juve deve stare attenta a Pogba, deve stare attenta a Vidal. Signori, che i tempi sono cambiati, sono gli altri giocatori che vogliono venire alla Juve, non quelli della Juve che vogliono andare altrove. Sì. Però questo è vero, ma però posso finiti i tempi di Calciopoli, Calciopoli non c'entra niente, Gioacchino, secondo me. No, tipo, sono finiti perché Calciopoli ci aveva fatto perdere. No, questo sicuramente. Adesso la Juve è il top che c'è in Italia dal punto di vista dei risultati, insomma, è abbastanza oggettivo. Però c'è Italia. Sempre qualcosa più a nord o più a sud. C'è sempre qualcuno. Luigi vincerà la Champions la Juve quest'anno. Vediamo. No, ma registriamola. Sarebbe un trionfo. Però voglio dirti che secondo me quello che riguarda Pogba e Vidal non è che uno ce l'ha con la Juve se gli dice attenzione perché il Real Madrid, perché il Manchester United, perché il Manchester, sono società che hanno dei budget superiori alla Juve. La Juve in questo momento in Italia è il top, è la squadra che ha il monte ingaggi più alto, che può permettersi gli stipendi migliori ed è una squadra molto competitiva in giro per l'Europa. Ma poi per stessa ammissione del presidente della Juve c'è sempre qualcuno che è più ricco di te, poi arrivi a un punto che non più ricco di tutti chi è, forse il Paris Saint Germain o il Real Madrid. Cioè se arriva uno che dice caro Pogba io ti faccio un contratto da 8 milioni netti l'anno, è difficile, capito? È molto difficile per il calcio italiano, e la Juventus, come diceva Pierluigi, è la più ricca all'interno del calcio italiano, è quella maggiormente dotata economicamente, ebbene è molto difficile trattenere giocatori dalle nostre parcheridi. No, per la E apertissima, caro Getta, se vogliamo pure sulla E apertissima, però si dice Caltanissetta con due S, brutto, Caltanissetta, brutto. Che cosa ho detto? Non ho detto Caltanissetta. Ma no, è la E che è aperta, capito? Tipo Caltanissetta. Tipo di bicicletta? Bicicletta. Ma sei bravo. non dici bicicletta alla milanese, piazzetta, pizzetta, non mica più a pettinare le bambole. Treno, vabbè. Salvatore da Napoli. Treno. Pronto? Pronto, Salvatore, come va? Volevo solo dire alcune cosette su questo trionfalismo del Milan, della Juve, che hanno giocato con il Celtic, che è una squadra che sta facendo un campionato a sé stante, là con le pecore, là dove pascolano le pecore, no, ma non è condivido la stanza, sì. The Sheep League, Sheep League, sì. Con lo Yorkshire, là, per non parlare della Juve, poi che ha fatto 3 pareggi e ha giocato con l'altra sera con il Copenhagen. Grande nobile del calcio mondiale, Copenhagen, che trionfalismi. Poi c'è sempre qualche regalino che sono un po' forzato, il rigore. Io sono napoletano, quindi sono un po' con il dente avvelenato. Lo sento, però i rigori c'erano, adesso non stiamo. C'erano, però viene andato, va bene. L'altra sera si stava strozzando al gol, porca miseria. Ma il trionista si strozza per definizione. Capito. È un po' di misura, no? Squadra italiana. Io pure io tipo, se sente il mio gol di Insigne dell'altra sera, uno solo c'è stato purtroppo, non ce n'è stato uno solo, ma sembrava. Ti sei messo a strillare come una quella. Anche io tifo per la Juve quando gioca con le squadre straniere. Però la voglio vedere con il Borussia. Con l'Arsenal la voglio vedere con queste qua. Sì. E già poi già lo dico adesso. Però Salvatore, mi perdoni, l'abbiamo vista la Juventus anche con il Napoli, eh? Sì, vabbè, il Napoli ha sbagliato la partita. E ne ha sbagliate un po' tante di partite di recente. Abbiamo visto pure la Juve con il Chievo che gli hanno annullato un gol in punizione. No, va bene, ma appunto, ecco, però visto che usiamo la Juventus per parlare del Napoli, mi pare di capire. Questo giro di coppe ha detto: è vero che il Milan ha vinto coi pegori, cioè con una squadra che onestamente è debole come il Celtic, al di là di quell'ambiente, lo stadio eccetera, però francamente non è proponibile a questo livello. La Juventus ha battuto niente meno che il Copenaghen, la prima vittoria della Juve in questa Champions League. Il Napoli ha un girone difficilissimo, però mi pare che ci siano dei limiti evidenti in questo Napoli, e lo sottolineano non solo le gare di Coppa ma anche quelle di campionato contro concorrenti diretti. Te posso dire una cosa impopolare: il Napoli ha un girone molto difficile, e questo è oggettivo, e sta facendo comunque benissimo in questo girone difficile, comunque sta facendo molto bene, perché ha un ranking di un certo tipo, e questo ranking, se l'anno scorso si fosse onorata l'Europa League un pochino di più, forse sarebbe stato migliore. Quando abbiamo visto la figuraccia di Pilsen a meno 5 gradi con la bufera di neve dopo lo 0-3 dell'andata e il tanto turnover durante la prima fase, quando vediamo squadre italiane che sottovalutano l'Europa League come un fastidio, come veramente un, non so, una rettoscopia, un'orticaria, una cosa, ecco, e poi alla fine queste cose purtroppo si riflettono, perché anche se è folle, siamo tutti d'accordo che è folle, l'Europa League conta a livello di ranking esattamente come la Champions League, per cui non passare un turno di Europa League pesa tantissimo, e sicuramente se il Napoli, che l'anno scorso poteva andare avanti in Europa League e ritagliarsi delle soddisfazioni, fosse andato un po' più avanti, avrebbe avuto una fascia migliore e un girone migliore. Detto questo, secondo me il Napoli, chapeau, sta facendo un ottimo girone, deve crederci d'accordo fino alla fine. Napoli-Dortmund rimane una bellissima pagina, le due vittorie col Marsiglia comunque hanno mostrato che questa squadra c'è, si sta costruendo, se dovesse andare in Europa League sono sicuro, conoscendo Benitez, che la onorerebbe e i tifosi sarebbero felici. Poi c'è ancora una partita con l'Arsenal per fare comunque un'altra grande impresa, sarà bello esserci. Proviamo a leggere i risultati anche calcistici, anche a prescindere dal risultato duro, no? Nudo e crudo. Bonaria, Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Io sono sarda e quindi volevo prima di tutto dire ai miei corregionari forza Paris e andiamo avanti. Ma al di là di questo, io volevo parlare di questo tifo contro che sento in tutti, anche quando le squadre giocano all'estero. Io avevo telefonato l'altro giorno e non ho potuto parlare per fare gli auguri al Milan. Io invece sono una vecchia signora juventina, forse la mia età mi rende un po' così debole, perché ho 85 anni e di calcio ne ho visto e seguito tanto. Ma mi dà veramente fastidio, anche questo napoletano che precedeva, la speranza che la Juve perda, che il Milan perda, cioè gli altri vincono solo per favoritismi. Sarà forse perché vivo a Roma, che ha delle emittenti che sono al limite della vergogna con questo tifo contro. Parlano della Lazio come se fosse chissà cosa, mentre loro sono chissà chi. Ecco, io vorrei che almeno quando giochiamo all'estero gli italiani tifassero per le squadre italiane. Sì, molti, molti come lei di comprovata cultura sportiva, anche se insomma, questo è un parolone, però molti di... Molti come lei che sono sportivi veri lo fanno, poi ci sono quelli che non lo fanno, noi no, sentiamo di neanche di buttare la croce addosso a quelli che ovviamente dentro i canoni della sportività. Gufare fa parte della vita, però esatto. Il messaggio che ci arriva da parte di questa signora è importante, perché al di là di tutto, io penso per esempio alla Germania. In Germania mi ricordo in occasione delle varie finali, per esempio la finale fra Bayern e Juve, hanno fatto dei sondaggi, il 70% dei tedeschi alla fine tifava per il Bayern, per cui al di là di chi magari tifa per le squadre strettamente rivali come possono essere il Dortmund, il Werder Bremen, le squadre che hanno più ostilità, comunque c'è una concezione un po' più nazionale dello stare insieme. Noi purtroppo in Italia spesso ci ricordiamo di quanto è bello essere italiani tutti insieme quando ci sono cose gravi, tristi, come quella che è successa in Sardegna recentemente. Storicamente siamo nel paese dei Guelfi e dei Ghibellini. Discute questo, nessuno può pretendere che il tifoso del Napoli ieri sera tifasse per la Juve o il tifoso della Juve tifasse per il Napoli, non ci prendiamo in giro. Però credo che questo messaggio, che è un messaggio di grande buonsenso, di grande cultura, di grande civiltà, sia una bella suggestione. Cioè, si può vivere benissimo, felici, tifando per il calcio italiano in generale, o comunque guardando la partita della tua avversaria in campionato con una serenità e con un piacere per il gioco, che mi sembra la cosa più importante. Sì, no? Sì, questo sì, pur senza dimenticare appunto che per estrazione storica, che per estrazione culturale, direi, questo è un paese in cui più che in ogni altro comunque il tifoso dell'Arsenal tifa contro il Tottenham in Europa, la non è che il diritto di cittadinanza, se contenuto entro limiti ragionevoli, è anche così condivisibile, se vogliamo. Here we go. Bocantins dalla Spagna. Filippo Maria. Abbiamo Filippo Maria Ricci, Ciao Filippo. Hola. Che pasa? Todo bien? Todo muy bien. Me encantó Filippo Maria en el tiki taka italiano, fue increíble, una aparición grandissimo. Come va? Che fai? Che vuoi che faccia? A quest'ora? A quest'ora sempre paella, no? Sto mangiando a quest'ora. Non so che voi siete lì a Milano, quindi cambieremo la cena. Però insomma, no. Beh, cena mi sembra fantastico. Innanzitutto, amici, siamo ancora. Siamo a Milano, però diciamo che insomma io ho origini. A cena lontana. Terroniche romaniche. Roma Nord. Tra tre orette già mi buttate la pasta, insomma. Sì, insomma, adesso non esageriamo. Un risino. Dai, un risino bianco alle 7:30. Va bene, senti, cosa mangi? Passiamo a cose serie. No, oggi sono qua, sono sotto casa al ristorante italiano e quindi sono con affettati e pasta, per cui è il momento dell'emigrante, della nostalgia canaglia dell'emigrante. Come se Egidio Galloni avesse giocato all'estero. Esatto, poi è il momento di Egidio, così. Per chi si tifa lì? Per chi si tifa? Quali sono le bandiere appese lì? Bandiere? Sì, no, per chi si fa il tifo? Di un ristorante? Qua c'è solo il Madrid, poi se ti sposti trovi anche l'Atletico. No, però non dice che era il ristorante italiano? Ristorante italiano, però no, è incolore. I proprietari sono emiliani, però non ho mai chiesto. Adesso che vuoi dire la prossima volta avrò una risposta. Però. Due minuti fa ci ha chiamato una signora gentilissima e splendida da Roma, ma di origine sarda, che invitava a tifare per le squadre italiane, anche per le rivali all'estero. In Spagna, questo puoi consolarci, quelli del Real in Champions non tifano per il Barcellona, credo. No, ecco. No, assolutamente no. Quindi diciamo che in questo tutto il mondo è paese, non avendo problemi di ranking, sì. Perché noi dobbiamo anche fare un po' di necessità virtù, cioè bisogna tifare per tutte le squadre italiane, perché poi forse rimedi qualcosa anche per la tua di squadra, che arriva quarta e adesso se arriva quarta sta fuori dalla Champions, invece se magari anche i pessimi rivali riescono a fare qualcosa, magari tra qualche anno anche la quarta tornerà in Champions. Qui, avendo essendo gli assoluti padroni del ranking, non gliene frega niente di giocare, certo, per gli altri. Senti, Phil, visto che Galatasaray di ieri sera, prima l'ho definito una simpatica compagnia di giro di vecchi attori, no? Mamma mia, fuori guarda, non c'è il numero uno, Cristiano, naturalmente, espulso Sergio Ramos dopo un pugno di minuti, e questi vengono malmenati e maltrattati. Ma no, guarda, io ti dico, poi non so, da africanista, ieri questi avevano tre africani in difesa, veramente mi piangeva il cuore, cioè un disastro, un disastro. Cioè, veramente io l'ho scritto nella mia pagella, cioè, Arbelò, io ero, pure adesso, prima le radio li facevano stare a bordo campo, adesso quelli che dovrebbero stare a bordo campo stanno in tribuna vicino a noi, no? Uh-huh. Però gridano come se fossero a bordo campo. E ieri era, cioè, in tre o quattro hanno cominciato a chiamare Gari in Charbeloa. Cioè, io c'era da piangere, veramente sembrava Garrincia. Dice che c'era un certo gusto dell'iperbole, c'era un po' di mezzo rigore, la difesa è veramente patetica, se la Juve non ne approfitta può solo che piangere su se stessa, insomma. Poi sì, hanno Drogba alla inglese? Drogba? Umut Bulut non è un brutto giocatore, Snyder tornerà e giocherà, però insomma non, mi sembra la Juventus troppo superiore, insomma. Poi sì, qua c'è tutta la fanfara del l'inferno turco, sì, ma non ci raccontiamo troppe. Sì, c'erano anche le suggestioni del Celtic Park, e poi se una squadra gioca ed è più forte, fa risultato. Poi vedo Mancini piuttosto spento, cioè non lo so, lui si è presentato alla vigilia dicendo: vabbè, tanto è uguale, se perdiamo pareggiamo non cambia niente. Cioè lui sapeva già che la partita importante era quella con la Juve, e va bene. Però insomma, io non l'ho visto proprio, come si può dire, cattivissimo, insomma. Cattivissimo me, no, mi sembra un po' involuto rispetto all'inizio, no? Quel Juve Galatasaray era stato un bel modo di partire, perché insomma, al di là degli episodi, squadra era sembrata una squadra proprio sveglia e completamente rigenerata. Ieri mi aspettavo molto di più, molto di meglio, la partita si sta mettendo anche bene, l'espulsione. Esatto, insomma, hanno avuto un'occasione, voglio dire, loro, c'è l'espulsione di Sergio Ramos, sì, vabbè, ti fanno un gol perché se il portiere inesperto, con la Juve tornerà Muslera al 90%. Quindi sarà Nando contro Nando? Va bene, ti fanno gol su punizione, però pareggi subito. Poi hanno, sì, questa grande occasione che insomma per me l'arbitro si è sbagliato, lì c'era, gli fischiano un fuorigioco, poteva andare sul 2-1, però quindi ci sei, la squadra c'è. E sparisce completamente. Certo, vabbè, la difesa è veramente patetica. Però non lo so, mi aspettavo di più anch'io, sinceramente. Sì, sì, ok, sì, che non. Però, cioè, se loro ieri vincevano, dopo i due risultati a favore ce li avevano loro. No, ma chiaro, è chiaro, non era una partita banale. Per loro soprattutto. Come, no, vabbè, tanto noi qua perdiamo, e poi ce la giochiamo con la Juve. Sì, poi c'è anche modo e modo per perdere, insomma. I turchi hanno scelto il peggiore. Senti, io ho dichiarato più volte la mia. No, ti fai tanto. La mia speranza per una Champions League di Ibrahimovic. Sai cosa ha detto oggi Ibrahimovic? Immagino tu lo sappia. Sentiamo. Già ieri sera ne ho sentita una. Eccola qua, questa. No, it's nothing that I think about. I mean, like some other ones, it seems very important for other players, but for me it's not important. I know what I feel about myself and I know what I think about myself. That is most important. I don't need a trophy to tell myself that I'm the best. Che genio, applauso per traduciamo, applauso. Traduciamo però, sennò che me frega del pallone d'oro. Non ho bisogno del pallone d'oro, altri giocatori hanno bisogno di questi riconoscimenti per avere autostima, io già so quello che valgo, insomma. È così, comunque, cioè Ibra veramente queste cose è un fenomeno, cioè ogni volta che parla a me, cioè, fa piacere. Comunque consideriamo il calcio uno spettacolo, sarà che io poi ormai sono all'estero da tempo, e quindi nei paesi dove sono stato il calcio è uno spettacolo, e lui fa spettacolo, cioè anche quando parla, vuoi dire, no? Parla di Dio e dice: no, ecco, Dio ce l'hai di fronte, no? Dice, il mondiale non è la stessa cosa senza Ibra. E poi non capisci mai quando sta parlando sul serio ti sta prendendo in giro. Non vedo la Ibra. quando, non capisci mai quando fa sul serio, quando ci è o quando ci fa, perché secondo me nella maggior parte dei casi lui ci fa. Ah, eh certo, è chiaro, abbiamo... ben venga, no? Cosa vuoi che ti stesse lì, no? Ma che ma tu sai quanto io possa adorare questi personaggi. Ce n'è un altro che pure rientra nella galleria dei miei preferiti, che l'altro giorno si è presentato in conferenza stampa con un taglio di capelli improbabile e poi ha anche perso con il Basilea. È Mr. José Mourinho, this one. Porca. Who cut it? Myself. In the training ground. I decided to do it. I asked Fernando to give me his machine. And I did myself in front of the mirror. It's nice. And cheap. Hai capito? Si è tagliato i capelli da solo, si è fatto dare da chi? Da Fernando, Torres. Fernando Torres la macchinetta per tagliarsi i capelli, l'ha fatto lui di fronte allo specchio. Facile, bello, è costa poco. Sembra la limitazione di Mourinho, perché sì, a me parla tutto un po' accorciato, no? Un po', perché? Togliato il capello. Perché poi l'ho sentito dire che la colpa della pausa internazionale. Sì, certo, è certo. Ma l'hanno già giocato dopo la pausa internazionale. Però è come il jet lag, lo senti dopo un po', capito? Esatto, che ti entra dopo, ti entra. È un fenomeno, anche questo è un altro che no. Senti, ma Ricci, adesso noi abbiamo qualcosa da lanciare. No, tra un minuto, 30 secondi al GR. 30 secondi al GR. Mi dici se il Real Madrid sta decollando? Perché era quello che ci diceva Ancelotti l'altra sera? Sì, sta decollando. La chiave c'è Alonso, comunque, in tutto questo. Si parla tanto di Cristiano, tutte con le faccine di Cristiano qua al Bernabeu, di cartone. La chiave c'è Alonso, è tornato lui e si è riaccesa la luce, insomma, perché tutti gli intorno c'è anche tanti ragazzini, tanti giovani, e la squadra la fa girare lui, e sì, insomma, il Madrid sta decollando, c'è anche dei ricambi validi, c'è questo Casemiro. Ancelotti non l'ha fatto giocare per 3 mesi, adesso lo sei ripresentato. Ragazzo è bravo questo brasiliano, forse era stato seguito pure dall'Inter, insomma, arrivato qua. Mi fanno ciao ciao con la manina. Ciao, ma Ricci è sempre al ristorante? Ciao. Cucinare no, ti dicono. Ciao Ricci. Ciao. Gianluigi Pardo, ci sei? Eccolo. Dove stai andando? Cosa cerchi sotto il tavolo? Messaggio di Carlo, mi ha scritto Carlo. Io invece saluto il mio amico Guido Meda. Ciao Guido. Ma c'è Pardo dall'altra parte? Sì, torno fra poco, sono di nuovo lì. Oggi faccio Cologno Fiera tipo. No, io non sono lì. Dove sei tu? Ma io sono ammalato. Che c'hai? Che t'hanno fatto? Influenza quella con la nausea, lascia stare, va. Com'è andato? Ma parliamo di sport. Parliamo Guido di sport. Guido Meda scatenato. Credibile, proprio lui. Devo dire che Meda, l'abbiamo già detto l'altro giorno in radio, ha seguito perfettamente il mio consiglio di andare piano nel rally di Monza. E non è vero, stavi andando fortissimo, hai rotto il motore. No, la gomma. La gomma l'ho cambiata all'ultima tappa. Hai fatto dei danni. Senti Guido, posso farti una domanda difficile? Vai. Cambi maglia? Cambio maglia. Perché è una domanda. Non è una domanda difficile, è una domanda che non ha risposta. Non ha risposta? Che maglia devi cambiare? No. Che maglia devo cambiare? Ma non scherzi. Dall'Inter al Milan. Ma dall'Inter al Milan. Interista sono. Ti pare che uno vada alla televisione e passa un'altra? Una cosa che non succede mai, non lo fa non nessuno. Succede, non l'ha mai fatta, non l'ha mai nessuno. Fatta nessuno. E quelli che l'hanno fatta, tra l'altro, sono delle teste a pera. Senti, invece, questi famosi 6 Gran Premi, 6 e poi decido se vado avanti o no di Valentino Rossi, pare sia come le parole di Boban su Balotelli. Cioè, non l'ho mai detto. Ma no, non è vero che non ha detto, che non l'ha mai detto. Allora, l'ha detto o non l'ha detto? Ma c'è, è andato in onda stanotte uno speciale nel quale c'era questa intervista che io personalmente ho fatto a Valentino Rossi, nella quale c'è, ma l'abbiamo mandato in onda ieri 20 volte, poi nel corso della giornata, nella quale c'è questa frase. Secondo me gli hanno riferito male. Sì. Il contenuto del comunicato stampa di Mediaset, che diceva questa frase sì, ma diceva anche però la mia priorità resta quella di andare avanti a correre altri 3 anni. È chiaro che poi se nel titolo c'è scritto mi do 6-7 gare l'anno prossimo per capire se smettere, si punta solo su quello, come immagino abbia fatto un po' la stampa internazionale e come certamente ha fatto un po' anche la nostra, e uno glielo riferisce male, sembra che lui voglia smettere. Ma noi non abbiamo né manipolato né estrapolato nulla. Aggiungo che questa notte è finito lo speciale, nel quale la frase c'era integralmente, ho ricevuto un messaggio di Valentino che diceva bella intervista, bello speciale, per cui mi sembra tutto molto sereno e... Quindi rimarranno determinanti, non parlo di sei gare, ma rimarrà determinante i risultati e le sensazioni che lui troverà. Ma lo dice da un bel po' di tempo che l'anno prossimo la sua competitività sarà cruciale. In questa intervista rilasciata 2 settimane fa aveva aggiunto che si dava come traguardo le prime 6-7 gare, perché arriva giugno, perché arriva il momento in cui capire cosa fa, il mercato lo chiede, no? Che a un certo punto a metà della stagione si decida che cosa fare l'anno successivo, e lui dice per me quello sarà il momento in cui capire se sono molto competitivo, siccome ho voglia di vincere, sono ancora molto competitivo o torno ad esserlo, continuo stravolentieri per altri 2-3 anni, sì. Altrimenti per forza devo prendere in considerazione l'ipotesi di ritirarmi, perché di andare avanti a fare quarto, quinto, io ma credo, no, questo è sacrosanto, non me lo posso permettere. Ma è molto più chiaro di come l'hanno fatta diventare. Sì. A me resta l'idea che a Valentino l'abbiano riferita male, per cui lui che ha smentito una cosa che non era necessario smentire, perché l'aveva detta lui, insomma. Appunto, era piuttosto curioso. Intanto portavi i bambini a scuola ieri al ranch con Bagnai e Fenati su a fare le sgommate fino a sera, quando poi ha detto, leggevo le cronache, buio, dice a Romano Fenati, correva quest'anno, correrà l'anno prossimo il suo team, correvi in moto 3, ragazzo mettiti il casco che andiamo a fare la notturna. È vero, ma questa è la grande, se vogliamo, la grande forza di Valentino Rossi. Ci sono due aspetti, uno è quello del divertimento che caratterizza, devo dire, la sua vita e la sua carriera, è uno che tendenzialmente se lo può permettere, si può permettere di giocare dalla mattina alla sera, di fare le cose che a lui danno gusto, no? Beato lui che lo può fare. Questo è un aspetto, e l'altro è quello di non vivere da nababbo, quale è, perché io credo che lui faccia fatica a spendere gli interessi che i suoi conti maturano ogni anno, di non vivere da nababbo. E noi siamo pronti nel caso dargli una mano, ad aiutarlo. Perché magari siamo è un problema. Pronti? No, dico, se dovesse, non sa come spendere questi soldi di interessi, noi siamo pronti qui a dare una mano. Certo, a spenderli, ma magari. È una forma anche di solidarietà. È una forma di cortesia. Ecco. Ma certo. Anzi, certo, puoi dirglielo appena lo vedi, insomma, noi siamo. Io quando lo vedo glielo dico. Ha detto Pardo che se vuoi ti aiuta se a vuoi, spendere i soldi. Senti, Guido, no, però dico, non vive da nababbo, no? Vive in maniera molto semplice. Spartano. Per cui per lui è libidine. Giocare con Romano Fenati Ma ti posso fare una domanda, tu che lo conosci come pochi altri, in cosa è cambiato? È cambiato dal punto di vista proprio della testa in questi anni? Ha perso un po' di follia, di sfrontatezza, perché questo, insomma, credo sia una dinamica dei piloti, non soltanto delle moto ma anche delle macchine, no? Dopo un po' un luogo comune dice circolante, dice Valentino Rossi ha paura. Paura, ragazzi, gli mancano 2 decimi di giro, non è che gli mancano, no, certo, 3 certo. Secondi, quindi che cos'è? Può essere l'età? Sì, un pochino può essere l'età, soprattutto l'età degli altri, certo. Cioè, e il talento degli altri, è una circostanza abbastanza curiosa quella nella quale si trova adesso, cioè lui ha trovato soprattutto uno, direi Marquez, ma anche Lorenzo, che è il classico talento che nasce una volta ogni 100 anni, ed è quello che era lui 10 anni fa. Come se Maradona a un certo punto si fosse trovato a 34 anni a giocare in campo con Messi. Devi buttarla tutta sulla classe e devi sperare di buttarla dentro, però insomma, se vuoi correre avanti e dietro per il campo fai un po' più fatica di quando avevi 10 anni di meno. È una curiosa coincidenza che, certo, che si diano il cambio 2 campioni di questo livello, secondo me. Guido, da questo punto di vista la paga, ma devo dire anche che la carriera di Valentino è caratterizzata da colpi di scena e sorprese e riscatti, per cui io proprio tanto convinto che sto declino sia ormai irreversibile. Non lo sei. Non lo sono. Certo. Posso dire che è bellissima questa cosa, forse dobbiamo chiudere, ma è bellissima perché noi spesso quando parliamo di calcio ovviamente ci chiedono intanto se ci sarà la replica all'intervista a Vale. Bisogna andare sul sito sportmediaset.it, credo che abbiano caricato tutta la puntata, e se perfetto, non è successo glielo facciamo fare. Glielo facciamo caricare. Sì, no, infatti questo lo diciamo su sportmediaset.it, ci sono puntate di tutto, anche per esempio di programmi, non lo so, del lunedì sera, tanto per parlare. No, voglio dire che il concetto di fame agonistica che nel calcio tante volte, insomma, si racconta e si lega ai trofei che hai vinto, e poi nei motori si intreccia anche con il concetto di rischio, di paura, di pericolo, cioè nel calcio magari hai un pochino meno fame perché hai vinto 5 scudetti. qualche caso può succedere, no? E qui magari c'è questo intreccio con col fatto che comunque ogni giro, ogni giorno della tua vita rischi, o no? Io sono d'accordo con te, è un mestiere che è certamente sfibrante, ma lo è secondo me inconsciamente, nel senso che i piloti, dico una banalità, indossano una un'autodifesa dal momento in cui decidono di fare i piloti e se la portano addosso per tutta la vita. Quello che devono fare è non pensare che loro sia uno sport pericoloso nel quale la vita è a rischio. Cioè, sempre per rimanere su Valentino Rossi, è uno che ha il terrore fottuto come me, come te, come Carlo, di farsi male, che quando gli racconti che ti sei tagliato un dito aprendo un barattolo di marmellata fa: ah no, che male, che schifo, ecco, e dopo il giorno dopo fa le staccate a 340 all'ora, capito? Cioè, dici che pure quello è uno sport estremo, l'apertura, sì, del barattolo, del barattolo. Ma loro fanno finta che sia una cosa, ah certo, ma paradossalmente è più estremo aprire un barattolo col vetro rotto che non fare quel mestiere lì. Guido, ti ringrazio. Poi un giorno mi dici a chi continua a mandare i messaggi Pardo mentre siamo in onda. Non sto mandando messaggi a nessuno. Ti ho visto prima, non fare un ignore. Guido Meda, scatenato. Ciao Guido. Ciao. Baci. Comunque il concorso pronostici di una popolare rivista che è sempre l'ultimo e devo mandare i pronostici. Adesso devi mandare gli indovini? Come me, io li becco tutti. Siamo abbastanza scarsi. Io li prendo tutti. Luca, provincia di Pescara, buongiorno. Salve, volevo chiamare per se fare un pronostico, per correggere una cosa detta da Pardo, se possibile, certo. Ovviamente, che io condivido anche a livello concettuale, parlando dello snobismo del Napoli per quanto riguarda l'Europa League, no? Sì. E quindi il coefficiente UEFA conseguenziale, se non ricordo male. No, quello che volevo dire è che il Napoli in realtà è stato comunque sfortunato, perché non è dovuto al coefficiente il difficilissimo girone che ha beccato. Il Napoli è stato sorteggiato sì in quarta fascia, ma in seconda fascia ha beccato l'Olympique Marsiglia. Il Dortmund in realtà lo ha preso in terza fascia. Sì, questo sì. Vuol dire che Juventus e Milan avrebbero potuto avere lo stesso identico girone del Napoli, ovvero con l'Arsenal in prima fascia e il Dortmund in terza fascia. Quindi quella è stata posso dire una cosa? Allora, in prima fascia il Napoli ha beccato l'Arsenal, ok? Sì, che sì, ha fatto una grandissima stagione, ma nel momento nel quale era stato fatto il sorteggio non sembrava la più forte, insomma era peggio il Real Madrid o il Barcellona o il Bayern, ok? Quindi diciamo che lì non è stata sfortunata. In seconda fascia ha pescato il Marsiglia e lì c'era di peggio. Ha avuto sfiga in terza fascia sicuramente, beccando il Dortmund. Però ti dico, ha avuto sfiga in terza fascia e ha avuto abbastanza fortuna in seconda. Io quello che ti voglio dire è che se fosse stato una fascia sopra, evitava il Borussia Dortmund, ma tanto il discorso non si fa niente, evitava il Borussia Dortmund sicuro e magari beccava il Copenhagen, capito? Quindi magari faceva il girone con Arsenal, Marsiglia, Napoli e Copenhagen. Cioè, il problema è che Napoli si trovava in quarta fascia. Per carità, il Napoli ha fatto 2 anni fa una Champions strepitosa, sta crescendo, è una società con dei progetti fantastici che sta crescendo e non è in discussione. Io credo che lo scorso anno in Europa League ci sia stata una sottovalutazione, che è la sottovalutazione che spesso abbiamo in Italia, perché facciamo un po' gli snob su una competizione indubbiamente all'inizio soprattutto poco sexy, che può diventare divertente dagli ottavi di finale in poi, ma invece bisogna farla con lo spirito che ci stanno mettendo la Fiorentina e la Lazio, soprattutto la Fiorentina già qualificata, e poi dopo a febbraio, se serve, come in quel famoso Villarreal Napoli alla vigilia di un Milan Napoli da scudetto, allora lì puoi anche fare un po' di turnover, perché ci sta. Puoi anche fare 2 conti. Ciao Pierluigi, domani ci sentiamo. Domani ci sentiamo, forse ci vediamo. Io ho capito che tu domani non mi vuoi perché hai paura. Ti licenzio. Sì, ho capito. Vado a Forum Agenti, non ti voglio. Voglio andare da solo con un mio amico. Te lo vedo alla piazza. Porto un amico. Domani porto un amico. Questo lineamento si chiama Andrea. È arrivato il signor Cruciani. Il signor Cruciani è arrivato. Ciao a tutti. Ciao Pierluigi Pardo. Franco Piantanida, Roberto Scaltritti, domani tutti a Forum Agenti Fiera di Milano, ci conosciamo così magari di persona. Venite. Merci. Oh, cosa mi dici mai? Let's discuss with the management. Mamma, cosa mi dici mai? Mamma. Il più bel regalo di Natale? Scoprire le stazioni di servizio Costantin. Alta qualità, a prezzi bassi. Vi ha presentato Tutti convocati.